24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Come Michelangelo, Matteo Renzi, meraviglioso, è un uomo straordinario, perché è alla patria Firenze di uomini valorosi, coraggiosissimi, persone che affrontano a viso aperto anche la materia inanimata. Michelangelo il marmo, Renzi il PD, vedete che sono persone straordinarie, ce questo la fanno fare Roberto tutto. Roberto Benigni, Renzi come Michelangelo in grado di affrontare la materia inanimata, no? Invece del marmo, il PD. E infatti ci svegliamo, cari italiani, e buongiorno con una nuova dibattito, il 450esimo dell'ultimo anno all'interno del PD. Le regole per la segreteria del Partito Democratico. E cosa mancava in questo dibattito politico? Proprio questo. Allora, buongiorno cari italiani, questo è 24 mattino, siamo qui. Questo è il numero per i vostri messaggi, 349-238-6666. C'è Miriam Lucchetti in redazione, c'è il nostro alpino Peter Bescapè che oggi dovrebbe fare... Cosa possiamo fare? È il suo compleanno! Quanti ne compi, alpino? Maggiorenne. Ma va messo, Tendiamo un velo pietoso. Comunque auguri all'alpino! E allora andiamo a aprire il nostro Parlamento! Evviva! Evviva! Sì, c'è sempre... Nicole Minetti, dobbiamo fare... Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori. Strozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti. Brutto cretino d'un Milan. Vabbè, chi lo sa se... Voglio salutare subito Matteo Salvini, buongiorno. Buongiorno. Dà fastidio il caffè della Minetti, io lo chiedo a tutti, perché qua c'è una signora molto arrabbiata che ci offra il caffè della Minetti, dà fastidio questa cosa, no? Ma no signora, su via, dai, che la Minetti non è più pagata né da lei né da me, quindi se lo prenda. Appunto, non è che mette in conto alla regione Lombardia ormai, né? E allora no. Voglio salutare anche Bimbo Alieno, buongiorno Bimbo Alieno, il nostro buongiorno, blog. Buongiorno a tutti. Il nostro Andrea almeno si può dire? Ma sì. Sdoganiamole queste cose. Allora, cosa c'è di più noioso del dibattito sul gelato a Milano? Però voglio subito chiedere a Salvini se ha mangiato un gelato a Milano dopo mezzanotte. Adesso dobbiamo spiegare anche il perché. C'è un'ordinanza che vieta che cosa, Salvini? Mamma mia, il gelato a Milano. Vieta il consumo fuori dai locali di panini, bibite e coni gelati. Dopo la mezzanotte nel quartiere ticinese, in Consacoma, all'Arco della Pace, sui Navigli. Siamo al delirio. Siamo al delirio. Secondo me il comune non se n'era neanche accorto. Secondo me il comune fanno delle ordinanze di cui non leggono i testi, poi la gente inizia a ridere o a incazzarsi e devono correre ai ripari, perché questo vale anche il taglio dei contributi a 3.000 anziani che da 400 a 200 euro, quindi e anche lì ha detto che devono darci un occhio, però io stasera il cono me lo faccio a mezzanotte. Ah, ecco, perfetto. Sì, ma è proprio lunedì, sui giornali, paginate sul dibattitone sul gelato a Milano, non c'è giornale che non abbia due pagine, io lo dico sempre, la carta costa, cari direttori di giornali, le copie scendono nelle vendite e poi dopo chiediamoci sempre il perché. Ma tu, Bimbo Alieno, hai in programma di mangiare un gelato oggi a mezzanotte, sempre che a Milano finisca la stagione dei monsoni, poi dopo Se ho capito bene, mi basta prenderlo in coppetta, sono salvo. Non lo sai? Questa è una soluzione, Salvini, forse la coppetta si può, il cono bisogna... Ho anche due palline sulle mani, se uno è veloce alle carcere. Esatto, forse abbiamo risolto, suggeriamo a Pisa Pia, sindaco di Milano, un modo per aggirare l'ordinanza, o palline sulle mani oppure coppette, e non ci avevamo pensato, tutto il dibattito è franato con il cono. Vabbè, no, parliamo di cose ben più serie. Allora, la domanda che voglio fare, usando anche un francesismo, è questo, perché il dibattito da qualche giorno sull'economia è puntato su questo. Caro Bimbo Alieno, dobbiamo fare un culone così alla Germania? Questa è la domanda che gira da un paio di giorni dopo l'intervista a Berlusconi, di fare la voce grossa con la Germania, che poi cosa vorrebbe dire? Ma cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire ottenere un ammorbidimento nei confronti dell'Italia e quindi come dire, la possibilità di gestire il nostro bilancio con un po' più di elasticità. Il problema è che quando noi lo gestiamo con elasticità, in realtà intendiamo gestirlo con allegria. Appunto, perché questa era la cosa. Cosa vuol dire gestire un bilancio con elasticità? Ma vabbè, diciamo, ci sono alcune voci che in effetti si possono e verosimilmente si riusciranno ad ottenere, che sono per esempio che cosa inserire nella voce, nel calcolo del deficit, la spesa fatta per investimenti, ad esempio, ora che non siamo più in infrazione, non è che dobbiamo, come dire, considerarci pronti a infrangere di nuovo, però visto che non siamo più in infrazione abbiamo un po' più di autorevolezza per poter chiedere di fare la spesa per investimenti al di fuori di quello che è il conteggio di ciò che è deficit. No, però è interessante questa cosa. Salvini da leghista, magari Salvini dice cos'è, dobbiamo puntare all'Italia, essere molto nazionalisti, cosa vorrebbe dire, cosa vuol dire in concreto per un ascoltatore che ci ascolta andare dalla Germania a fare la voce grossa, secondo lei? Secondo me è demenziale metterla su questo piano, e lo dico da europarlamentare che domani sarà a Strasburgo fino a giovedì. La Germania fa il suo interesse, la Germania dice non fate altri debiti che poi non li ripianiamo. Il problema è come è stata costruita questa Europa, e invece la Germania si potrebbe parlare della Svezia, del Regno Unito, della Francia, perché questa Europa sta danneggiando l'Italia in tutte le maniere possibili e immaginabili, con le nostre produzioni dall'olio d'oliva alle scarpe, all'ortofrutta, ai mobili. Quindi è l'intera Europa che va ripensata. Dire dobbiamo fare il matto alla Germania mi sembra tornare a Italia-Germania 4-3, vuol dire non capire o far finta di non capire o confondere. Ma o va ripensata tutta l'Europa, con i sistemi di voto, la Commissione europea, i contributi che l'Italia dà e che all'Italia tornano, oppure ad esempio sull'agricoltura ci stanno massacrando, ma non c'entra niente la Germania. No, ma non, non è un modo, cioè come dire, la Germania è presa come simbolo della nazione che più si è avvantaggiata dalla costruzione della nuova Europa, e quindi la Germania è il simbolo in qualche modo di un'Europa che va bene per alcuni e va male per altri, questo forse. Finché l'Italia va a Bruxelles col cappello in mano, chiedendo se per cortesia ci danno qualcosa, non incidendo sulle scelte a monte, io ricordo ad esempio Monti negli ultimi mesi, finché va a chiedere l'elemosina invece che a imporsi, non è colpa della Germania. Quindi Berlusconi in questa maniera secondo me alza un polverone che non serve all'Italia, che sta perdendo il lavoro per colpa di questa Europa, serve solo a lui per fare un po' di propaganda. È un po' di bimbalino, io vedo un po' di propaganda berlusconiana, questo è il punto di Salvini. Sì, beh, diciamo che sicuramente il metodo di comunicare, appunto, facciamo il mazzo alla Germania, eccetera, insomma. Ma che poi vuol dire fare un po' come, cioè, fare la voce grossa, cioè andare a Bruxelles, appunto, non più col cappello in mano, per usare l'immagine di Salvini. Detto da colui che scrisse la letterina, aggiungiamo anche però. La letterina. Vabbè, adesso basta avere un minimo di memoria. Luglio 2011, sì, no? Faremo i bravi. La letterina all'Europa. Allora, dobbiamo far sentire, dobbiamo dare uno scoop. Qui alle 6.42, visto che abbiamo uno dei protagonisti, Matteo Salvini, allora vogliamo far sentire il segretario della Lega, Roberto Maroni, che ieri era, credo, dalla Latella, intervistato da Sky. Sentite, Maroni, che cosa dice? L'ha detto chiaramente, Bossi vuole tornare a fare il segretario della Lega. Beh, adesso il segretario sono io, punto. E secondo, il prossimo congresso eleggerà il nuovo segretario anticipatamente rispetto alla scadenza e sarà un giovane. E sarà Matteo Salvini, ecco lo scoop, il nuovo segretario della Lega, ce l'abbiamo qui in anteprima, Salvini, è così? Ma Poi col piffero che mi alzo alle 6:30 per parlare con voi. Ecco, infatti non parlerà mai più, mai più. Il segretario di un partito diventa una persona importante e io prima delle 8:30 non mi collego. Non ci concederà più mezza intervista, bimbo alieno. Imprimiti bene la voce di Matteo Salvini, perché quando diventerà segretario della Lega Nord, basta, non ci sarà più possibilità di averlo. Vabbè, Salvini, però adesso bisogna chiarire una volta per tutte questa storia di Umberto Bossi. Allora, che sta succedendo a Umberto Bossi? Cos'è? Un po' nostalgia, rabbia, sì, rancore? Sì. Allora, ha creato tutto e quindi ci sta, umanamente parlando, che dica voglio ancora esserci io, però nella vita come in politica gli eventi proseguono, vanno avanti, non bisogna guardarsi indietro, bisogna avere riconoscenza, non bisogna guardare avanti. E quindi Umberto Bossi potrà avere ancora un ruolo molto importante, ma sicuramente non come segretario. Ma come è importante? Ma se ha detto in intervista, ha detto Maroni è un traditore, Tosi fa casini. L'unico che ha salvato, l'unico che ha salvato è Salvini. L'unico che ha detto. Ma di solito, no, ma poi quando mi becca la macchinetta del caffè nella sede della Lega, spesso mi dice che non capisco un accidente. E vabbè, ho capito, però pubblicamente. No. Ma perché? Parte, no, ma perché Salvini? Ma perché una frattura dentro la Lega? Perché io girando la Lombardia, il Veneto in lungo e in largo, nessuno ha nostalgie, nessuno vuole tornare indietro e tutti guardano avanti. No, ma questo l'ho capito, anche perché all'ultimo al primo comizio di Bossi c'erano 200 persone, credo, la settimana scorsa. Ma la domanda è, ma perché questi toni? Cioè Maroni ha tradito, Tosi non capisce niente, in Lombardia abbiamo vinto grazie a Berlusconi, Cota in Piemonte ha finito. Secondo me è mal consigliato da qualcuno che magari viveva nella sua ombra e viveva alle sue spalle, adesso ha perso quel piccolo grande potere che aveva grazie a Umberto Bossi e quindi è incazzato. Come c'è qualcuno che alimenta per voglia di cadrega e di potere queste polemiche che però non fanno bene né a lui né a nessuno, perché l'emergenza in Lombardia è il lavoro. Sono i consiglieri di Boss, insomma, qualcuno che lo consiglia male. Vabbè, allora dobbiamo andare a sentire le informazioni sul traffico, poi c'è la segreteria telefonica, devo fare una premessa, venerdì scorso, voi non avrete ascoltato, comunque avevamo lo straordinario Guido Bozzi, ex magistrato presidente di TAR, che è colui che ha fatto ricorso alla Corte dei Conti, poi portato alla Corte Costituzionale, per cui è stato dichiarato incostituzionale il prelievo, diciamo, di solidarietà sulle pensioni d'oro. Noi ce ne siamo occupati la scorsa settimana, sono arrivate una valanga di telefonate, insomma non proprio di vicinanza nei confronti di Guido Bozzi, alcune sono finite anche in segreteria che sentirete tra poco. 24 mattino. Buongiorno signor Mila, sono un uomo di 80 anni, per 60 anni di sacrificio vi ero fatto una casa. Un bel giorno a mia insaputa Equitalia me l'ha portata via. Adesso vivo di sacrificio, è dura proprio. Perché se l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ci comandano chi non lavora e chi ruba e guadagnano più degli operai? Signor Milan, 35 saggi, 6 scribi, 40 ladroni, a me pare che manchino farisei. Il marchese del Grillo che ha detto io so io e voi non siete un C e Bozzi sono la stessa cosa. Ecco, io vorrei dire a questo dottor Bozzi che se lui da un punto di vista giuridico può avere anche ragione, questo suo comportamento, stando come sta l'Italia adesso, grida vendetta al cospetto di Dio e dovrà rispondere a quello lassù. Signor Alessandro Milan, buongiorno, sono Maira da Prato. Quando rivede il signor Giuseppe Bozzi, che l'ha intervistato sapientemente stamani mattina, dovrebbe fare come fece Totò con un suo interlocutore, quando li prende, si avvicina, li prende l'occhio in mano, glielo dilata e li sputa dentro. Quanto mi piacerebbe vedere questa scena, signor Milan, guardi, lei non ha idea. Mi scusi tanto, sai, io sono un po' così boccaccesca, essendo toscana, però guardi, il primo impeto che mi è venuto. L'unica soluzione dopo la trasmissione di stamattina è la dittatura, altrimenti andremo incontro all'anarchia. Allora, mentre io adesso lei la rispetto, magari in un secondo momento potremmo anche spararci addosso. Ho paura che succeda come in Argentina, dove si sono contati i morti. Beh, speriamo proprio di no, speriamo proprio di no, come ci dice questo ascoltatore. Comunque sto dottor Bozzi, che è colui che ha fatto ricorso, bimbo alieno, è quello che ha fatto ricorso contro le pensioni, il prelievo una tantum sulle pensioni d'oro, e argomentava, e dal punto di vista del diritto la Corte Costituzionale gli ha dato ragione, però la gente, come dire, si è scatenata. Ma certo, c'è la questione dei diritti acquisiti, sì, infatti, dire, non si possono toccare, ci vuole anche una progettualità di lungo, medio, lungo periodo, voglio dire. Se noi non vogliamo finire in una crisi finanziaria e economica più grave di quella che stiamo vivendo, dobbiamo tenerci saldamente aggrappati a questa. Ma che stai recitando? Cos'è sta roba? Un comunicato stampa del dottor Bozzi che ti ha mandato? Non lo so, comunque. Vabbè, allora, l'altra domanda è questa. È vero, ci sono le urne aperte, quindi Salvini non mi faccia scherzi, non mi combini, non dica di votare qualche... Cos'era il sindaco l'altra volta che aveva vinto? Agnosine, l'ha sentito? Penso a Bareggio. Bareggio, no, lasciamo stare che ci sono le urne aperte. Però il tema che si può affrontare è questo. Oh ragazzi, ma non va a votare più nessuno. Non va a votare più nessuno. Ci sono le foto di Alemanno e Marino, i due contendenti, che portano le mamme anziane. Cioè, se non vanno a votare le mamme, i candidati, gli scrutatori, ormai alle prossime votazioni, Salvini si va al seggio e si sta con gli scrutatori a giocare a carte 3-4 ore. Non c'è nessuno che va più a votare. Secondo me non è mai un buon segnale. E lo dico a chi ci sta ascoltando, magari dice basta, col mio non voto così capiranno la lezione quei ladri e quegli spaccati. No, non capiranno, infatti. No, questo non serve. No, perché tanto il sindaco viene eletto lo stesso. Io preferirei avere un sindaco della mia città, di qualunque colore politico, ma eletto da tanta gente, non un sindaco che rappresenti chi poi vota per interesse, perché quelli che votano per interesse personale ci vanno. Quindi le persone per bene che non votano si tirano una martellata sulle ginocchia da sole. Certo, la politica non fa tanto per far votare i litigi, le polemiche interne, i regolamenti, la legge elettorale, il semipresidenzialismo, l'emergenza e il lavoro. Sì. Però io dico che chi non vota perde in partenza, quindi su questo, e anche chi in segreteria telefonica se la prende con tutti i politici, che sono tutti ladri, falliti, mangiapane a tradimento, io li contesto dall'inizio alla fine, perché ci sono alcuni politici così e altri che fanno il loro lavoro. Sì, però il tema effettivamente è questo. Oggi anche Vittorio Feltri sul Giornale proprio fa l'editoriale di prima pagina, poi pagina 3, sveglia, gli italiani sono stufi di votare. Cioè, è vero, c'è il professor Dalimonte che sul Corriere dice ma guardate che un calo è fisiologico sempre. La verità è che, non so, bimbo alieno, la gente è stanca. Cioè, non è sbagliato, perché anche secondo me ha maggior ragione il sindaco che colui che deve essere votato dai cittadini. Se uno non vota neanche il proprio sindaco, allora che ci stiamo a fare? Però la gente non va più a votare, non gliene frega più niente. È anche vero che viviamo in uno scenario talmente anacquato, talmente insipido, dove, voglio dire, il voto di protesta è diventato non voto, mi sembra abbastanza evidente, purtroppo, aggiungo, perché sono d'accordo nel dire che sia una cosa che bisogna andare a votare, cioè almeno uno lo so che c'è la sfiducia eccetera, ma come dice Salvini, in questa ha totalmente ragione, se anche vanno a votare in 10 e sono quelli interessati a votare, e quei 10 poi decidono per tutta la comunità, ma la gente proprio è Salvini, dice, evidentemente è un discorso che anche questo non prende più, la gente dice ma chi se ne frega, questo è. E poi però se ne pente, perché io vedo a Milano quanti di centrodestra e della Lega non hanno votato 2 anni fa per la Moratti, per 1001 motivi, magari anche con delle ragioni. E adesso ci hanno il gelato. Oggi all'alba dei coni gelato, dei circolatori e quant'altro, dicono, però insomma, e poi si lamentano. Chi non vota poi perde il diritto al lamento, però rimane giusto Radio 24, però perché se non voti per il tuo sindaco, poi no, però quello che viene dopo fa qualche fesseria. Però Salvini, cosa c'entra i picconatori? Cioè l'alba dei coni gelati dei picconatori? No, ma perché ieri discutevo con una signora incazzatissima che dice ma come il Comune di Milano nel nome della sicurezza vieta i coni gelati dopo mezzanotte e nel mio quartiere, appunto, nel quartiere di Quarto Giaro, è successo quel che è successo, quindi... Vabbè. Dai, allora facciamo così. Andiamo a chiudere, posso chiudere il nostro bar. Il caffè l'ho offerto sempre Nicole Minetti. Ringrazio Matteo Salvini della Lega, segretario della Lega in Lombardia, deputato. E ringrazio Bimbo Alieno per essere stati con noi. Che dire, andiamo al giornale radio, appunto, ci troviamo dopo le 7 per la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:20 minuti, ben ritrovati. Eccoci a leggere i giornali con voi, cari ascoltatori. Vi ricordo oggi di cosa parleremo. Beh, avremo ospite alle 8:15. Ilaria Cucchi. Sono passati alcuni giorni, è passata un po' la tensione dopo la sentenza che ha condannato alcuni medici, ha mandato assolte invece le guardie carcerarie per il caso della morte del fratello Stefano Cucchi, un caso che ha fatto molto parlare in Italia. E avremo la sorella Ilaria Cucchi con noi dalle 8:15 a rispondere alle nostre, alle vostre domande, anche con il numero di telefono. Lei ha accusato anche molto i medici condannati, dicendo sono indegni di portare il camice bianco. Avremo ospite anche, interverrà il presidente dell'Ordine dei Medici, Amedeo Bianco. Comunque, protagonista Ilaria Cucchi ai nostri microfoni dalle 8:15. Intanto cosa facciamo? Appunto, andiamo a sfogliare i quotidiani che trovate in edicola. Questo lunedì 10 giugno i titoli di prima pagina, Il Sole 24 Ore apre sulla riforma condominio, sui bonus il primo test, questo è il titolo, le nuove regole che sono a partire dal 18 giugno, dunque da martedì prossimo, e cambieranno le maggioranze in assemblea, tutto quello che vorrete sapere appunto sui condomini in Italia con la riforma in arrivo. Poi i seggi sono ancora aperti fino alle 15, c'è tempo per votare, cari italiani, per i ballottaggi, ma certo che finora l'affluenza è disastrosa, nelle città l'affluenza crolla, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Per il Messaggero, dove si gioca soprattutto la partita su Roma, Roma tonfo dell'affluenza, questo è il titolo di prima pagina, il ballottaggio per ora vota il 32%, ma le urne sono riaperte appunto da oggi fino alle 15. Il Giornale, fuga dal voto, atto secondo, le elezioni amministrative. Per il Secolo XIX, ballottaggi disertati, perso l'8%, e anche il Quotidiano Nazionale, seggi sempre più vuoti. Per Repubblica, siamo sempre alla politica, il dibattito nel PD, Renzi sfida Epifani sul congresso, mentre La Stampa, Merkel più morbida sull'Italia, questo è il titolo. L'Unità, anche L'Unità, Renzi scuote PD e governo, questo è il titolo di prima pagina. Mentre Il Fatto Quotidiano, l'edizione del lunedì, gli approfondimenti e le inchieste, Stomaco SPA, ecco cosa ci fanno mangiare. Questa è l'inchiesta del Fatto Quotidiano, edizione del lunedì. Voglio partire da due storie che provengono dall'estero, ma che sono anche molto affrontate in Italia. La prima è di questa talpa, avete sentito anche il giornale radio, è uscita allo scoperto. Edward Snowden, appena 29 anni, è colui che ha fatto sapere al Guardian e quindi a tutto il mondo che in pratica negli Stati Uniti, per un accordo tra il governo americano, quindi con il presidente Obama, e le compagnie telefoniche, prima il gigante telefonico Verizon, in pratica tutti sono spiati, siamo spiati o sono spiati negli Stati Uniti in nome della sicurezza nazionale, dati di telefonate di milioni di abbonati sono controllate dalle autorità centrali. E poi il Washington Post ha fatto sapere che anche dai server di 9 compagnie internet, Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, e non solo, tutte controllate, insomma, grande fratello. Allora, dopo questo scoop mondiale del Guardian, ora il Guardian gli era fatto sapere anche chi è la talpa. Potete vederlo in foto sui giornali, la talpa è un ex della CIA, così titola per esempio il Corriere della Sera con Michele Farina, pagina 16. Edward Snowden, 29 anni, ora dice sono a Hong Kong, chiedo asilo all'Islanda. È un ex della CIA, 29 anni, stipendio da $200.000, una fidanzata e una casa alle Hawaii dove non metterà più piede. Eccolo qui Edward Snowden, tecnico informatico che ha svelato le trame, i documenti del Datagate e la gola profonda che ha spiattellato i piani di spionaggio antiterrorismo per i quali l'agenzia di intelligence federale americana, la NSA, ha chiesto e ottenuto la collaborazione dei grandi operatori di telecomunicazioni delle principali società di internet. È un ragazzo in fuga, né laureato né diplomato, cresciuto tra la Carolina del Nord e Maryland, ed è lui la fonte degli scoop pubblicati sul Guardian. È stato lui stesso a chiedere al quotidiano britannico di uscire allo scoperto. Ora dice in una video intervista: non voglio attenzione mediatica, ho fatto tutto questo per una questione di principio, voglio che si parli di quello che il governo americano sta facendo. Con questo passo la talpa spera che per loro sia più difficile giocare sporco. Come vive ora? Beh, in fuga appunto a Hong Kong, sta in camera tutto il tempo, sul comodino una biografia di Dick Cheney, ha paura di essere spiato, mette i cuscini contro la porta per evitare intercettazioni, quando si mette al computer prima di digitare la password si cala un cappuccio rosso sulla testa e sul laptop per evitare telecamere nascoste. Qualcuno dice paranoia, beh, ma chi ha lavorato però 10 anni per i servizi sa che le precauzioni non bastano mai. Non ho molte chance, ammette lui al Guardian. Il governo potrebbe chiedere la mia estradizione, i cinesi potrebbero sfruttarmi, qualcuno potrebbe consegnarmi alla CIA. Lui spera di andare in Islanda, un paese che protegge la libertà della rete, un po' quello che aveva fatto anche credo Assange in un primo tempo. Comunque, insomma, eccolo qui anche su Repubblica. Datagate, la talpa, è un ex della CIA, 29 anni, per 6 anni nei servizi segreti, è fuggito a Hong Kong. Mi daranno la caccia, ma dovevo parlare perché Obama sta distruggendo la libertà. Lui dice: credevo in lui, non l'ho votato, ma ora agisce come Bush. E insomma, è colui che ha creato anche il dibattito se sia giusto o meno quello che lui ha fatto, quello di svelare questo piano, che certamente crea non pochi imbarazzi politici per l'amministrazione Obama. La seconda notizia molto interessante che proviene dall'estero viene messa in prima pagina dal Secolo XIX. Ricordate, sono passati solo 2 anni dal disastro di Fukushima in Giappone, il disastro nucleare. Ebbene, volete sapere cosa è successo, l'effetto Fukushima nel mondo? Beh, scrive in prima al Sole 24 Ore: è finito. Il mondo, non l'Italia ovviamente, ma il mondo torna a investire sul nucleare. Federico Simonelli in prima pagina: il nucleare non è morto, ha solo spostato il baricentro, forse potrebbe tornare a far parlare di sé. A 2 anni dall'incidente di Fukushima, la costruzione e l'avvio di centrali in giro per il mondo non si è fermata. In Europa, in buona parte dei paesi occidentali, a parte alcune eccezioni, sta ancora attraversando una fase di stallo, ma soprattutto negli Stati Uniti c'è chi sostiene che un rinascimento nucleare, espressione particolarmente in voga nella prima metà degli anni 2000, potrebbe essere dietro l'angolo. Nel frattempo, a dedicarsi con entusiasmo all'atomo sono paesi emergenti: Cina, India, Corea del Sud, Turchia, Russia. Secondo i dati dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i reattori nucleari attualmente attivi sono 437 nel mondo e di quelli in costruzione, vale a dire 68, la maggior parte si trova in Asia. Nel 2012 è stata avviata la costruzione di 7 impianti, 4 in Cina, 1 in Corea del Sud, 1 in Russia, 1 negli Emirati Arabi. Segno inequivocabilmente che il meridiano dell'atomo si sta spostando a oriente. L'energia elettrica prodotta dalla centrale nucleare attualmente rappresenta il 15% del totale a livello mondiale, ma sempre secondo l'agenzia, entro il 2023 la capacità di generare delle centrali atomiche crescerà almeno al 23%. È interessante, insomma, questo focus che continua poi a pagina 2 e 3. Il titolo a pagina 2 è: il nucleare è vivo, così il mondo cancella Fukushima. C'è anche un'intervista invece al professore dell'Università di Bologna, Vincenzo Balzani, che dice: sono costi enormi, cerchiamo altre strade, il problema del nucleare è che costa troppo, non si sa dove mettere le scorie, porta con sé un messaggio sbagliato, cioè che si può produrre tanta energia potenzialmente infinita da un quantitativo minimo di materia. Il fatto è che noi il consumo di energia lo dobbiamo ridurre a livello globale e non aumentarlo. Così Vincenzo Balzani, che è docente ex, per la verità, docente emerito di chimica all'Università di Bologna, uno dei 100 chimici più conosciuti al mondo, si è occupato a lungo di energie, tra le altre cose ha svolto intense ricerche nel campo delle rinnovabili che sono il futuro, in questa intervista che trovate a pagina 2 per il professore. Ovviamente c'è anche un focus sull'Italia, Gilda Ferrari, l'Italia, il paese senza centrali che fa però affari con l'atomo. Insomma, un tema diverso, di taglio diverso e di approfondimento che trovate sul secolo XIX che mi sembra il caso di segnalarvi. Dopo la pubblicità del meteo invece ci rituffiamo su cosa? Beh, intanto la politica italiana, tra la scarsissima affluenza alle urne, un po' di risse solite, una all'interno del PD ci mancava sul tema della segreteria, e poi anche l'economia, soprattutto con uno sguardo a questo braccio di ferro invocato da Berlusconi da ingaggiare con Angela Merkel in Germania. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Alle 7:35 minuti eccoci nuovamente a leggere i giornali. Oh, io voglio partire dai tanti articoli che trovate, anche molto interessanti, sui rapporti tra Italia, Germania, l'Europa, dopo che nei giorni scorsi Silvio Berlusconi, l'ex premier, ha detto all'attuale premier Enrico Letta: bisogna negoziare il braccio di ferro, andare insomma in Europa, soprattutto nei confronti di Angela Merkel, e fare il pugno duro, no? usare toni forti sul tema del non solo del rigore ma anche della crescita e dello sviluppo. Allora, il primo articolo interessante lo trovate sulla Stampa, Marco Zatterini, il titolo è a pagina 3: ora Merkel incoraggia l'Italia, ridate tutti i soldi alle aziende. È un articolo nel quale si spiega che Angela Merkel in realtà ha una visione ora più aperta nei confronti dell'Italia. Sentite Marco Zatterini: il secondo problema di Frau Merkel, oltre alle elezioni federali settembrine dall'esito incerto, è la crescita frenata dalla bassa competitività europea, soprattutto quella di partner più pesanti. Vorrebbe insomma che Francia e Italia avanzassero decisamente con le riforme. La paura infatti di Berlino è che quando il denaro sarà più caro non si saprà come agire sull'economia e mantenere allo stesso tempo il deficit sotto il 3%. Insomma, secondo Angela Merkel, anche per l'Italia il momento è adesso, il momento migliore. E allora, da un anno e mezzo, la Merkel sprona, questo racconta la Stampa, a pagare gli arretrati alle imprese, e ne ha parlato sia con Mario Monti sia con Enrico Letta. Sono 70 miliardi che dovete a piccole e medie aziende, è una questione di credibilità. Non è possibile convincere le imprese a essere oneste con l'erario quando lo Stato stesso non onora i propri arretrati. Ci voleva Angela Merkel a venirci a dire una ovvietà tale, dico io. Avete sentito bene, secondo la Stampa Angela Merkel spinge con Enrico Letta, come ha fatto con Monti: date i soldi alle imprese, 70 miliardi, altrimenti se non onorate voi questo patto, come pensate che le imprese possano onorare il patto con il fisco e pagare? I due premier, racconta la fonte citata dalla Stampa, hanno risposto che sì, è necessario, si deve fare questa cosa, però crea problemi col deficit, al che Frau Merkel risulta avere insistito nell'incoraggiamento, sottolineando che in ogni caso si tratta di una spesa una tantum e possiamo spiegarla ai mercati globali. Insomma, si può magari sforare qualcosa, in questo, traducendola così, però è una cosa una tantum che ridà fiducia, si può spiegare ai mercati globali e ricrea uno spirito di collaborazione. Questo insomma è già l'incipit di una nuova strategia, pare, da parte di Angela Merkel, questo almeno raccontando quello che scrive la Stampa, l'ennesima conferma del tentativo di Berlino di cambiare la sua retorica europea citando ripresa e sviluppo prima del rigore. Ora Merkel incoraggia l'Italia, questo è il primo articolo sul tema. Poi c'è la questione che ieri si è sparsa, è stata una notizia data dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, una notizia che però è stata subito smentita dalla Banca Centrale Europea, e cioè la notizia era data dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung era che la BCE, la Banca Centrale Europea, aveva fatto una marcia indietro decidendo di mettere un tetto allo scudo anti-spread, cioè di limitare a un massimo di 524 miliardi di euro l'acquisto di bond dei paesi cosiddetti periferici, da Portogallo, Irlanda, Spagna e Italia, Era un dettaglio non solo tecnico, voleva dire una sorta di sconfessione, perché prevedere un tetto, come scrive Stefania Tamburello sul Corriere della Sera pagina 2, voleva dire esplicitamente sconfessare l'annuncio iniziale che aveva previsto nessun tipo di tetto. La Banca Centrale Europea si è subito affrettata a smentire, a dire le notizie date dalla FAZ, cioè dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, sono assolutamente false, non c'è alcun tetto. Tutto questo viene relazionato al fatto che tra due giorni inizierà il dibattito nella Corte Costituzionale tedesca a Karlsruhe, dove si dovrà decidere della compatibilità del tetto, appunto, delle misure non convenzionali di acquisto di titoli con la legislazione tedesca. Quindi, dopo la smentita della BCE, anche il Messaggero racconta, pagina 6, la BCE va alla guerra con Bundesbank, nessun limite all'acquisto di titoli, e tutto questo è messo in relazione, appunto, con quello che potrebbe essere la decisione della Corte Costituzionale tedesca. Dunque c'è tensione su questo tema all'interno della Germania. Tra l'altro, sulla Germania c'è un'intervista proprio sul Messaggero all'ex ministro dell'economia italiano Tremonti. Giulio Tremonti dice nell'intervista a pagina 6, intervistato da Alberto Gentili: attenti a Berlino, potrebbe allearsi con Mosca. Questo è lo sviluppo che vede geopolitico Giulio Tremonti. C'è un problema, un rischio: la Germania e Russia potrebbero unirsi e formare un unico blocco di potenza, dice Tremonti. La Germania si è già dannata nel secolo scorso come potenza di terra. Questo rischio va evitato anche nell'interesse della Germania stessa. È vero che per la Russia la porta dell'Europa è sempre passata da Berlino, ma l'Europa non può restarne fuori. Faccio una citazione, dice Tremonti: Giovanni Paolo II, il futuro dell'Europa è cristiano e va dall'Atlantico agli Urali. Insomma, la Russia nell'Unione Europea, chiede Alberto Gentili, è un'ipotesi positiva, risponde Tremonti, se è un'ipotesi democratica e non solo energetica, se è europea e non solo germanica. In ogni caso, tutto si sta muovendo sul quadrante geopolitico a est. Basta guardare al caso Turchia. Questo dice Giulio Tremonti nell'intervista. Beh, certo, nel momento in cui Angela Merkel ci dice e ci sprona, secondo una fonte citata dalla stampa, a pagare le imprese, fa veramente specie, fa da contraltare l'articolo che trovate di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera a pagina 6, e che riguarda appunto l'economia italiana, e che dal titolo fa veramente sobbalzare: le aziende e il record della burocrazia. In 5 anni 288 nuove norme fiscali. Avete sentito bene? 288. E infatti, come inizia Sergio Rizzo? Semplificare. Non c'è politico o governante che non abbia pronunciato almeno una volta questa parola. L'ex ministro Calderoli, per rafforzare il concetto, si fece immortalare nel cortile di una caserma dei pompieri mentre dava fuoco con un lanciafiamme a 375.000 leggi inutili. Nemmeno tanto tempo fa, era il 24 marzo del 2010. Poi è toccato al governo Monti, per bocca del ministro Passera, a lanciare l'urlo di dolore per le complicazioni della burocrazia, invocando semplificazione al più presto. Ora è la volta del ministro del lavoro, Giovannini, che annuncia: il governo sta lavorando a un'operazione di semplificazione molto forte che dovrebbe vedere la luce a brevissimo. Dichiarazione del 4 giugno. Auguri, scrive Rizzo, perché da quando è cominciata la precedente legislatura, cioè il 2008, sono state varate 288 norme fiscali che hanno avuto come conseguenza quella di complicare la vita alle imprese. È un numero pari al 58,7% di tutte le disposizioni di natura tributaria, che sono 491, introdotte attraverso 29 differenti provvedimenti, oltre 4 volte superiore a quello delle 67 cosiddette semplificazioni fatte nello stesso periodo. Ecco, meditate su questi dati, con Angela Merkel che ci dice dovete pagarli questi 70 miliardi delle imprese, se no non ripristinate il rapporto di fiducia delle imprese stesse. E dall'altra parte, semplifichiamo, sì, lo facciamo, semplifichiamo, 288 norme fiscali nuove dal 2008 a oggi. Vabbè, iniziamo a abbracciare la questione politica con il dato incredibile, incredibile. Per la verità, per il professor Dalimonte, politologo intervistato dal Corriere della Sera, non è così incredibile, è abbastanza fisiologico. l'affluenza alle urne, nei ballottaggi, non si va più a votare. A Roma addirittura, dove si può votare fino alle 15, è la città più importante dove si rinnova il sindaco, in ballo ci sono Alemanno, sindaco uscente, Ignazio Marino, è il 32%, cioè ha votato un elettore su tre, il 32% ieri. L'affluenza scende ancora, meno 8 punti ai ballottaggi, titolo al Corriere, non va nessuno alle urne. Sveglia, gli italiani sono stufi di votare, questo è Vittorio Feltri in prima pagina del giornale, l'editoriale di Vittorio Feltri. A forza di votare ci siamo stancati, si vota per le europee, per rinnovare il Parlamento nazionale, per eleggere i consigli regionali, governatori, province, comuni, circoscrizioni, ogni due per tre siamo in ballo con certificati elettorali da recuperare in fondo a un cassetto. Ci rechiamo al seggio svogliati, dispieghiamo in cabina un lenzuolo con una miriade di simboli indecifrabili, tracciamo la classica croce su quello che ci fa meno schifo. Alla fine non cambia niente, nemmeno il rito dei commenti televisivi che vede la partecipazione dei soliti giornalisti, incluso chi scrive, impegnatissimi nel ripetere sempre le stesse baggianate ispirate al desiderio di barcamenarsi. Tutto ciò accade circa una volta l'anno. Ogni tornata viene spacciata per decisiva. Ai fini della stabilità politica, si dice puntualmente, dalle urne uscirà un responso che consentirà di capire dove andremo a finire. Dove volete che si vada a finire se non a Ramengo? Dopo quasi 70 anni di frequenti esercizi elettorali, l'unica certezza che abbiamo ricavato dal voto è la seguente: chiunque vinca non riuscirà a fare neanche un decimo di quanto sogna di realizzare. Già, senza soldi non si va da nessuna parte. Così Vittorio Feltri, oggi per me illuminante del motivo per cui la gente è stufa, stanca, marcia di votare non tanto persone, non è una questione personale, ma votare un sistema in cui nulla cambia, perché il sistema è fatto in modo per cui anche le persone più volenterose non riescono a fare, come scrive Feltri, più di un decimo di quello che promettono. Comunque, si vota ancora fino alle 15, la politica è anche una gran rissona all'interno, o dibattito all'interno del PD sulle regole, con Renzi che scalpita, il Movimento 5 Stelle che oggi si appresta a fare i conti con alcuni dissidenti, e da qui ripartiamo dopo il traffico. Allora, Renzi ieri ha parlato, Repubblica delle Idee, la kermesse di Repubblica, una lunga intervista, questa volta non mi faccio fregare, dice ai Epifani, prima fissi la data delle primarie, prima fissi le regole, le primarie aperte, insomma siamo tornati sempre lì, poi dico, prima fissi tutto, poi dico se mi candido oppure no, ha fatto varie battute anche nei confronti di Letta, che ha detto lui è proprio bravo, sono solidale con lui, deve governare con Brunetta e Schifani, io non avrei quell'equilibrio, e questa frase ha fatto arrabbiare molti nel Popolo della Libertà. Insomma, un Renzi che se l'è presa un po' a tutto campo, Renzi mattatore. Epifani oggi risponde, qualche dichiarazione a Repubblica, esagerare non aiuta, eleggeremo il segretario entro l'anno, la data del congresso, dice Epifani, resta fissata entro fine anno, di certo non si andrà oltre, fuori discussione, però inviterei a concentrarsi sui ballottaggi e a non esagerare, insomma il dibattito. Poi Renzi se l'è presa con Nico Stumpo, colui che è uno degli organizzatori della macchina burocratica delle primarie vecchie, dicendo ancora Stumpo, è come affidare Dracula all'Avis, ha detto Renzi. Allora tutti i giornalisti a cercare Nico Stumpo, intervistato da Repubblica, intervistato dal Messaggero, intervistato dalla Stampa. Alla Stampa Nico Stumpo per esempio dice: io Dracula, Matteo è un piagnucolone e ha un atteggiamento tra il prepotente e il piagnucoloso. E poi su Dracula, beh, è la stessa battuta che fece Berlusconi contro Visco alle Finanze, ecco lì l'accusa. Insomma, lei sta paragonando Renzi a Berlusconi, ma no, non sono io a farlo, dice Stumpo, è lui che ha copiato la battuta da Berlusconi. E vabbè, insomma, e questo è il dibattito che mancava certamente all'interno del Partito Democratico e che per la 450esima volta viene appunto riproposto negli ultimi mesi. Invece il Movimento 5 Stelle è alla resa dei conti, questo almeno titolano molti giornali. Chiarimenti interni sugli atteggiamenti fuori e dentro il gruppo rispetto alle decisioni assembleari. Recita così, scrive il Corriere della Sera, vagamente minaccioso, l'ordine del giorno dell'assemblea congiunta convocata per oggi pomeriggio alle 17, così racconta Alessandro Trocino a pagina 12 del Corriere, insomma una sorta di resa dei conti, perché ci sono due che sono fuoriusciti, Labriola e Furnari dal Movimento 5 Stelle, altri che paiono uscire, Labriola che dice ho ricevuto, la Labriola è una donna, dice ho ricevuto minacce anche fisiche, il fuoriuscito Furnari dice contro di me una gogna mediatica, vabbè, insomma. Tra l'altro sul Movimento 5 Stelle vi segnalo l'interessante editoriale di Ernesto Galli della Loggia in prima pagina del Corriere, colui che aveva anche elogiato in passato il voto al Movimento 5 Stelle subito dopo le elezioni. Scrive Galli della Loggia, dopo un lungo paragone tra Movimento 5 Stelle e Lega, che nascono entrambi, scrive, per impulso di due figure carismatiche, Grillo e Bossi, prive di qualunque background o curriculum politico. Due persone che si inventano tutto, poi creano un seguito personale, trascinano al successo la loro creatura. Ecco, ma dopo questo paragone si concentra Galli della Loggia sul Movimento 5 Stelle e scrive: quello certamente più evidente è la contraddizione tra carisma e leadership. Agitare una folla, emozionare nei comizi è una cosa, guidare un gruppo di eletti al Parlamento in base a qualche strategia un'altra. Grillo ha mostrato di avere il carisma, ma sta mostrando di non sapere come trasformarlo in leadership, cioè in qualcosa che ha bisogno di almeno tre elementi. 1. Un'idea di fondo sufficientemente realistica delle cose da fare. 2. Riuscire a inventarsi una struttura organizzativa. E 3. La capacità non già di farsi obbedire, ma di convincere. Il passo dal carisma alla leadership non gli riesce, probabilmente per un'insicurezza personale di fondo. Infatti, mentre egli ha assoluta padronanza del primo elemento, cioè un'idea di cosa da fare, per quanto riguarda invece la seconda, l'idea di inventarsi una struttura organizzativa, è consapevole di non sapere neppure da dove si comincia. Così Galli della Loggia, che poi continua: nelle difficoltà di trasformare un successo elettorale in leadership in grado di animare una vera presenza politica, si scorge in realtà un dato rilevante della situazione italiana, cioè che da decenni ciò che nasce dal basso come genuino movimento di protesta e rinnovamento della politica non riesce in alcun modo a liberarsi del connotato intellettualmente elementare, ingenuamente protestatario, antropologicamente plebeo, piccolo borghese, con cui vede ogni volta la luce. È tutto qui, cari ascoltatori. Come vedete, tralascio Napolitano e l'appello, e ho trovato questo titolo sul Corriere della Sera: Napolitano accelera sulle riforme. Io non ci volevo credere. Servono riforme anche sulla stampa, quei titoli che vengono messi in fotocopia ogni giorno e riproposti in diverse pagine con le foto aggiornate. Come vedete, mi sono tenuto alla larghissima dal dibattito sul gelato a Milano. Mi appassiona come il clima a Milano, c'è un'ordinanza sul gelato a Milano, mi appassiona come il clima monsonico di Milano. Ci fermiamo qui, è tempo del giornale radio e poi avremo dalle 8:15 Ilaria Cucchi, il caso Stefano Cucchi, ai nostri microfoni, anche con il numero di telefono 800 24 00 24, risponderà a tutte le nostre e vostre domande. A dopo. Mattino. Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:18. Allora, cari ascoltatori, di cosa parliamo oggi? Beh, è passato qualche giorno, sicuramente è calata quella tensione che avete anche percepito, se avete visto immagini, le scene in tribunale della scorsa settimana, le lacrime comprensibili dei familiari della vittima, le urla anche assassini nei confronti dei magistrati da una parte. E poi c'era la gioia, anche questa comprensibile, delle persone che sono state assolte dall'altra, anche se qualcuno si è lasciato andare anche a gesti sicuramente da censurare, come il dito medio mostrato ai familiari della vittima. Insomma, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo della sentenza e della storia di Stefano Cucchi, morto il 22 ottobre del 2009 a 31 anni, 6 giorni dopo essere stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. La sentenza è stata mercoledì scorso, ripeto, lo scenario è un pochino diverso magari dalle tensioni iniziali. Con noi c'è Ilaria Cucchi, la sorella, che saluto, buongiorno e benvenuta. ben ritrovato. Buongiorno. Buongiorno. Ilaria Cucchi ha portato avanti in primo piano con la propria forza, diciamo, è stato il volto più conosciuto anche della famiglia, dei familiari di Stefano, che si è battuta e si batte per una verità che voi dite è una verità che non è uscita nella sentenza di primo grado. La vogliamo ricordare: sono stati assolti i poliziotti della penitenziaria, assolti gli infermieri dell'ospedale Romano Pertini. Le uniche condanne per omicidio colposo sono per 5 su 6 medici che erano imputati e che avevano in cura appunto Stefano Cucchi, che fu arrestato 6 giorni prima, il 15 ottobre del 2009, e poi fu trasferito il 17 ottobre all'ospedale Pertini, dove morì appunto qualche giorno dopo, il 22 ottobre. Allora, senta Ilaria Cucchi, vogliamo partire intanto dalla questione del clima. Io, per carità, è tutto comprensibile, ma lei quelle urla assassini le condivide? Guardi, io ovviamente non me la sento di condividere e di tollerare, ma nemmeno di biasimare nessuna reazione. Io capisco che quella è la reazione delle persone che come me conoscono la verità. La verità io credo che la sappiano, l'abbiano capita tutti. E con quella sentenza in qualche modo la sensazione è quella che si volesse archiviare la morte di mio fratello, così come era stata archiviata la sua vita. E è una sentenza che in qualche modo forse mi aspettavo, anche se fino all'ultimo momento avevo sperato che la giustizia sapesse essere attinente alla verità. Però purtroppo abbiamo avuto un processo molto complicato sicuramente dal fatto che c'è stata una grande ipocrisia di fondo, quella di voler portare avanti a tutti i costi da parte dei pubblici ministeri l'idea che Stefano tutto sommato sarebbe morto di suo e che sarebbe morto anche stando a casa sua. Questo grazie ad una consulenza, quella del professor Arbarello, che diceva in buona sostanza questo. Noi eravamo stati avvisati dal nostro avvocato Fabio Anselmo, quello a cui andavamo incontro. Lo stesso avvocato durante l'udienza preliminare aveva chiesto ai pubblici ministeri di cambiare quei capi di imputazione e 3 anni fa aveva già previsto quello che poi si è verificato pochi giorni fa con la sentenza. In buona sostanza la morte di mio fratello è una morte per colpa medica, questo è stato detto. Sì, certo. E quindi Stefano Cucchi, di cui tutti hanno visto le foto terribili del suo corpo e di cui tutti credo abbiano ben chiaro quello che è successo, e diciamo, mi riferisco al fatto che fino al momento dell'arresto lui stava bene e conduceva una vita normale, ma questo non lo dico solo io, non lo dicono solo i suoi familiari, non lo dicono solo le decine di testi che sono venuti a dirlo in aula, ma lo dicono gli stessi carabinieri che hanno effettuato l'arresto. Cioè, quindi dice, non però questo è un caso di malasanità. Di malasanità. Su questo ci arriveremo. Tra l'altro io ricordo 800 24 00 24, se volete porre anche domande a Ilaria Cucchi, domande che sono ovviamente comode, tante domande sono anche scomode. Io, se lei me lo consente, leggerò anche i messaggi che arrivano. Sono messaggi in alcuni casi anche molto nudi e crudi. Per esempio, una delle cose sulle quali si pone l'accento è questo: ma perché date sempre spazio alla storia di una persona che era un tossicodipendente? Ci vuole chiarire una volta per tutti questa... Certamente. Allora io direi a questa persona e alle tante che forse la pensano in questo modo che nel nostro paese c'è purtroppo un enorme problema culturale che rispecchia questa domanda. E sì, è vero, era un tossicodipendente, un ex tossicodipendente, era una persona che era stata fermata dai carabinieri perché era stata trovata in possesso di droga, era una persona accusata di spaccio di droga, ma una persona che avrebbe dovuto pagare di fronte alla giustizia per i suoi errori. Mio fratello è stato processato nell'udienza per direttissima come albanese senza fissa dimora, quando i carabinieri la sera prima avevano visitato la sua dimora, eppure nessuno si è posto il problema di guardarlo in faccia, nessuno ha ascoltato la sua voce. Io invito tutti ad ascoltare la registrazione di quella udienza per direttissima e credo non si possa non notare il fatto che mio fratello già stava male e stava male perché era stato vittima di quel pestaggio. Ma perché lei dice come Baresi senza vista di dimora? Diciamo, non lo avevano identificato? Cioè, ma guardi, giudice e pubblico ministero di quell'udienza sono venuti a testimoniare in aula ed hanno detto con veramente hanno detto con un'aria da un lato di normalità, dall'altro forse anche dispiaciuti, che sì, effettivamente non l'avevano guardato. Io ho sentito dire che in queste udienze preliminari capita spesso che un arrestato arrivi in quelle condizioni. Però voglio dire, questo è un problema culturale che deve necessariamente cambiare, perché al di là della persona di cui stiamo parlando, comunque parliamo di una vita umana. Ma certo, è vero che mio fratello era una persona fragile, beh, questa non è un'attenuante. Ma questo è sicuramente un punto fondamentale, cioè la battaglia che secondo me voi portate avanti è questa: qualunque cosa avesse fatto, in questo caso suo fratello, il vostro familiare, Stefano, qualunque cosa avesse fatto, era una persona che se aveva sbagliato era affidata in quel momento allo Stato, perché lo Stato la deteneva. La vita umana rappresenta sempre qualcosa da proteggere e tutelare, tanto più quando è nelle mani dello Stato. Senta, invece, nei confronti, giusto per archiviare poi la questione del clima molto molto forte, quel dito medio alzato, lei come lo vede? Qualcuno ha detto, beh, ma insomma, in fondo dall'altra parte urlavano assassini a persone che, secondo una verità giudiziaria, erano state appena assolti. E quindi una di queste persone ha reagito alzando il dito medio nei confronti di chi urlava queste parole. Lei che pensa? Io non so a chi fosse rivolto quel assassini, però posso dire che il dito medio io, che non ho visto ovviamente in quel momento perché i miei pensieri erano da tutt'altra parte, e lo percepisco come un'offesa a noi, famiglia prima di tutto, come ogni gesto inconsulto lo comunque percepisco così, perché davanti a tutto questo, nelle prime file di quell'aula, c'eravamo io e i miei genitori. E quindi lo percepisce come un'offesa anche diretta alla vostra famiglia. Tra l'altro, scusi, in presa diretta ci chiede un ascoltatore via sms dove si può trovare la registrazione, che lei dice, invito tutti ad ascoltare questa registrazione del processo per direttissima a suo fratello, ma esiste, è pubblica, è un qualcosa, oppure è stata prodotta in udienza? È un qualcosa che è agli atti e che credo si trovi anche online. O comunque provvederò a metterlo sul mio Facebook, che tra l'altro in questi giorni è impazzito. Questo mi fa capire la coscienza popolare che c'è su questo tema, che nonostante tutto mi fa credere che la verità è emersa, la verità le persone lo sanno. Ecco, perché voi dite e l'avete detto subito e lo ribadite, non c'è stata o meglio non c'è stata alcuna condanna, lo Stato non è riuscito in grado di giudicare le persone colpevoli, questo si vedrà, ci sarà un appello, eventualmente un terzo grado, però ci sono delle persone che sono state condannate, sono i medici. Lei tra l'altro ha detto queste persone sono indegne di portare il camice bianco, conferma, anche se è una sentenza di primo grado? Sì, beh, diciamo che questo è la responsabilità dei medici, è qualcosa di gravissimo e di innegabile, perché se è vero che mio fratello non sarebbe mai arrivato in quel reparto detentivo del Sandro Pertini se non fosse stato per quel pestaggio, è altrettanto vero che arrivato lì i medici che lo avevano in cura non hanno fatto neanche quel poco che sarebbe stato sufficiente per salvargli la vita. Queste persone oggi dovranno fare i conti con la loro coscienza. Ma perché non potrebbero continuare la loro professione? Perché diciamo il principale compito nella vita di un medico è quello di salvare le vite umane. Sa che uno di questi medici, il primario, ha detto molti delle persone che vengono detenute non collaborano, rifiutano le cure, sono non cooperativi, e ce ne sono molti, come era il caso di suo fratello Stefano, e questo non aiuta. Sì, però ci sono sicuramente delle misure che possono essere messe in atto quando si verificano queste situazioni, tanto più che parliamo di medici che dovrebbero essere abituati a relazionarsi con persone, diciamo, con un carattere scontroso, poco collaborativo, come è stato a più riprese definito mio fratello, tra le altre cose. E quindi, insomma, io credo che questo non dovrebbe essere un ostacolo per curarli, o quantomeno fare una denuncia. Se è vero che mio fratello si stava lasciando andare, che non era collaborativo, che non accettava l'alimentazione e le cure, perché non prendere dei provvedimenti? Perché non scrivere al magistrato? Mi risulta che sia stata scritta una lettera che però è rimasta nel cassetto, non è stata mai inviata. Insomma, nessuno si è posto il problema lì dentro che c'era un ragazzo di 31 anni che si stava spegnendo, come nessuno si poneva il problema che se a loro non importava niente di questo ragazzo che stava morendo in solitudine, lì fuori dalla porta c'erano due genitori che disperatamente ogni giorno provavano a chiederne notizie. Perché non dare notizie ai genitori? Magari sarebbe stato sufficiente che loro lo vedessero, che lui sapesse che loro erano lì fuori. Ma questo forse interrompere quello che loro dicono essere un suicidio. Questo forse è il motivo che starà, poi vedremo le motivazioni, alla base della condanna, cioè la condanna dell'omicidio colposo, cioè una colpa medica, non essere riusciti a capire che la situazione di suo fratello era una situazione che avrebbe portato alla morte. Certamente. E questo è il motivo, per cui è questa, e torna alla domanda iniziale sulla questione della condanna, cioè una condanna c'è stata, alcune persone sono state condannate, perché voi dite nonostante ciò non c'è stata giustizia? Non è che i processi possono finire, debbono finire per forza come uno voglia. Ma non è questo, però la giustizia deve essere attinente, deve attenersi strettamente alla verità, e la verità è che se mio fratello non fosse stato massacrato di botte nei sotterranei del tribunale, come sostengono i pubblici ministeri, non ci sarebbe né stato quel meccanismo che poi ha portato alla sua morte. Questo e è il punto. Si può chiedere di ignorarlo. Io capisco che è molto complicato perché si rischia di mettere in discussione un intero sistema, lo capisco, però è un cittadino normale che ha vissuto rispettando le istituzioni, rispettando le regole, si aspetta esattamente questo e nient'altro. Da qui voglio ripartire tra qualche minuto, dopo la pubblicità, tra 5 minuti. Con noi c'è Ilaria Cucchi, perché la domanda di base è proprio questa. Lei dice si rischia di mettere in dubbio tutto un sistema, cioè lì ci sono dei magistrati che hanno vagliato tutte le testimonianze, hanno vagliato tutte le prove dell'accusa, tutte le difese degli imputati e hanno deciso in alcuni casi, nelle assoluzioni degli agenti di polizia penitenziaria, che quelle botte non sono la causa della morte di suo fratello. 800 24 00 24, tra poco ci sarà anche con noi il presidente dell'Ordine dei Medici, Amedeo Bianco, perché a capire anche una posizione ufficiale dell'Ordine dei Medici, le uniche persone come categoria che in questo processo in primo grado sono stati condannati. Rientriamo anche con le domande degli ascoltatori. La nostra ospite fino alle 9 è Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:37 minuti con noi e ai nostri microfoni c'è Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano Cucchi. Allora una precisazione, perché sono arrivati tantissimi messaggi, come stanno arrivando tante telefonate, alcune domande adesso le passeremo. Chi mi scrive perché non sentite anche medici secondini, che poi sono agenti di polizia penitenziaria, a parte che adesso il presidente dell'Ordine dei Medici è con noi. E poi ecco, io una cosa questa che non tollero, per chi ci conosce sa che i nostri microfoni sono aperti a tutti, abbiamo anche invitato il primario condannato Aldo Fierro, primario condannato a 2 anni in primo grado, ci ha fatto sapere, è una sua scelta che noi rispettiamo, so che è anche un nostro ascoltatore, quindi probabilmente sta ascoltando la trasmissione, ci ha fatto sapere che non ritiene opportuno parlare di questa vicenda pubblicamente. Quindi noi siamo aperti a tutti coloro che vogliono parlare, se hanno intenzione di parlare, come capiamo, ed è comprensibile che uno possa scegliere invece di mantenere il riserbo, anche perché il procedimento è solo in primo grado. Allora, insieme a Ilaria Cucchi voglio salutare il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, presidente dell'Ordine, Amedeo Bianco, che saluto, buongiorno presidente. Buongiorno, grazie a lei, buongiorno agli ascoltatori e alla signora Cucchi. Allora, mi faccia sentire prima un'ascoltatrice, Antonella da Roma, buongiorno Antonella. Buongiorno. Dica Antonella. Senta, io avevo in tutta questa vicenda sempre avuto questa domanda, no? Sì. Che un po' mi angoscia, pure perché ognuno di noi ci potremmo trovarci in questa situazione, un figlio di 22 anni, quindi sono problemi problematiche che ci potrebbero toccare, ma a me mi interessava sapere, ma la famiglia in tutto questo, prima che il ragazzo facesse la fine che ha fatto, diciamo, in carcere non sapeva che questo ragazzo stava così male e non è potuto abbattersi prima. Prima cosa vuol dire? Cioè, lei intende dire nei 6 giorni dell'arresto o prima che venisse arrestato? Perché qua c'è Ilaria che le può rispondere. Anche quando lui stava in carcere. Quando è stato in carcere? Stava così male, si rifiutava di mangiare. Cioè la famiglia cosa faceva? Lei vuol chiedere questo. Sentiamo, sì, magari no, è intervenendo prima e dicendo che il ragazzo non poteva stare lì ma doveva stare in altri reparti. Allora, ascolti Ilaria Cucchi, le risponde. In quei 6 giorni cosa avete fatto, Ilaria Cucchi? In quei 6 giorni purtroppo mio fratello è stato inghiottito dal carcere. Noi non sapevamo quali fossero le regole del carcere, semplicemente perché non avevamo mai avuto a che fare con questo. E mio fratello stava bene quando è stato arrestato, camminava sulle sue gambe, un'ora prima dell'arresto faceva tapirulando in palestra. E noi non potevamo immaginare quello che gli stava succedendo in quei 6 giorni. I miei genitori ogni giorno erano fuori dalla porta del Pertini quando hanno saputo che era stato ricoverato lì e nessuno gli dava notizie, non solo. A un certo punto sovrintendente della polizia penitenziaria gli disse: non possiamo dirvi nulla, comunque il ragazzo è tranquillo. In realtà mio fratello era agonizzante. E mio padre e mia madre sono stati sbattuti da una parte all'altra, dal tribunale al carcere, per ottenere un permesso per poter, non dico parlare con mio fratello, ma quantomeno avere notizie. Quindi lei dice... questo permesso purtroppo è arrivato la mattina del 22 ottobre, mio fratello all'alba del 22 ottobre era già morto. Quindi il permesso è arrivato quando suo fratello era già morto. Allora, questo grazie anche a Antonella ovviamente per questa domanda. Io, Presidente Bianco, Ilaria Cucchi è stata molto chiara a dire le persone, i medici che sono stati condannati anche se in primo grado non sono degni di poter portare il camice bianco. Lei come Presidente dell'Ordine cosa risponde? Secondo lei è una richiesta legittima? Beh, guardi, mi lasci solo magari alcune brevissime considerazioni di contesto, poi arriviamo anche a questa questione. Io credo siano davvero molti coloro ai quali, pur nel dovuto rispetto dell'operato della magistratura, in assenza delle motivazioni analitiche, no, del dispositivo, cioè diciamo che i conti non tornano con quella sentenza che ha declinato una vicenda, sappiamo essere, abbiamo sentito anche adesso, molto controversa, molto complessa, in un ennesimo episodio di negligenza, imperizia e di imprudenza di 6 medici. Allo stato degli atti, la ricostruzione dei fatti, degli antefatti, in altre parole la catena del nesso di causalità che sappiamo essere importante, determinante, anche a semplice buonsenso lascia davvero delle vaste zone grigie. È legittima, mi sia consentito dirlo, forti perplessità su come l'individuazione delle responsabilità, comunque dovuta in questo caso, ci mancherebbe, si sia concentrata sul segmento finale, derubricando il tutto ad un ennesimo caso di mala sanità in capo a 6 medici, compreso chi non c'era e chi non c'è nemmeno in trasmissione, ritengo in ragione di una cosiddetta responsabilità oggettiva. Detto questo, sulla specifica questione, che davvero io mi auguro non si fermi qui, sul piano più generale forse vale la pena, qui rispondo alla domanda, affermare con altrettanta forza che un medico o un professionista della salute investito di una responsabilità colposa ha sì commesso un errore, ma è sbagliato attribuirgli una patente di indegnità tecnico-professionale e morale. Però un errore lei lo definisce in genere, facciamo un ragionamento di carattere generale, poi arriviamo allo specifico. L'esito indesiderato di un'attività medica o sanitaria, ecco, ferisce sicuramente, o peggio, fisicamente e moralmente chi lo subisce, ma credetemi, anche chi senza volerlo lo ha commesso. Chi indossa un camice bianco è comunque profondamente legato a realizzare il bene della persona assistita. E che questo valore distingue e responsabilizza la sua attività da una qualsivoglia anonima prestazione contrattuale di opera professionale. Se questo valore, nonostante qualche smarrimento, che pur ci sono, non fosse così diffuso e presente tra i nostri medici e tra i nostri professionisti nella sanità, tutta la nostra sanità pubblica sarebbe seppellita sotto le macerie. Sì, ma Presidente, questo assolutamente sì come principio, ma mettiamo, cioè, mettiamo il caso, fossero anche diciamo, l'ultimo anello di una catena che ha funzionato male, diciamo così, sarebbero comunque una parte di quella catena, ecco, questo è il punto. Ilaria Cucchi e i familiari si lamentano dicendo è vero, le responsabilità non sono state date in capo anche ad altri, forse anche per loro più responsabili, sicuramente la genesi di tutto quel problema che ha portato addirittura poi alla morte, però di questa catena facevano parte anche dei medici, Presidente. E io credo di avere risposto, se hanno commesso degli errori e se viene dimostrato ulteriormente che hanno commesso degli errori in quella catena di causalità, ripeto, che diventa fondamentale, perché non possiamo sganciare questo da tutto il resto, questo potrebbe anche, come dire, disegnare una diversa prospettiva di queste eventuali responsabilità, questo non possiamo negarlo, non possiamo ragionare a segmenti. Io sto dicendo, se anche l'avessero commesso, perché errori si commettono, questo non giustifica, è comprensibile l'indegnità, è comprensibile, l'indegnità. Io mi rendo conto che quanto sia difficile nel dolore, nella rabbia di una ingiustizia subita, vera o presunta che sia, non dimenticare che, insomma, un medico non opera mica per commettere errori. No, è chiaro, è chiaro. Cioè, se fosse, anche dimostrato, sarebbe un'indegnità morale. È importante. Credo di sì. Ecco, noi, questo ragionamento non insegue delle immunità pregiudiziali del responsabile. No, ma è chiaro, però è un punto fondamentale questo da cui voglio ripartire tra un attimo, avere una replica da Ilaria Cucchi, devo dare le informazioni sul traffico, è importante. Lei dice, Presidente Bianco, se hanno commesso degli errori, non è certamente però un dolo, quello che, cioè lei non vede in quei camici bianchi delle persone che volutamente hanno procurato la morte di Stefano Cucchi, e quindi questo non può dare a loro la patente di indegnità, perché nella professione, tenendo conto che comunque lo spirito è propositivo e i principi sono sani, uno può anche commettere un errore. Eccoci qui. Allora, Ilaria Cucchi ha sentito il Presidente dell'Ordine dei Medici molto chiaro a dire se hanno commesso degli errori, questo non vuol dire avere dolosamente procurato, e questo sarebbe indegno ovviamente per un medico, non tutelare la vita. Che replica lei? Io intanto saluto il Presidente dell'Ordine e gli dico che forse di questo dovrebbe parlarne con il Professor Arbarello, quel luminare che ha incarico appena ricevuto e prima ancora immagino di poter guardare le carte, già dichiarava alle telecamere del TG5 che si trattava di una colpa medica e che sarebbe stato suo compito quello di dimostrarlo. Quello stesso consulente che il giorno della pronuncia della sentenza era presente in aula a volersi far grande e che poi dichiarava ai giornalisti che era tutto merito suo e che lui l'aveva detto. Per il resto quello che le posso dire sono le mie sensazioni da sorella. E io subito dopo l'arresto di mio fratello e il suo ingresso in carcere vivevo nell'angoscia, perché mio fratello in carcere non c'era mai stato e ovviamente nemmeno io, non sapevo di cosa si trattava, ma l'avevo visto tante volte, l'avevo sentito raccontare e l'avevo visto nei film, la realtà delle carceri, e non dormivo la notte, ero preoccupatissima al pensiero di come si sentisse lui. Quel sabato sera, quando i carabinieri sono venuti ad avvisarci che Stefano era stato ricoverato al Pertini, ero preoccupata per il suo stato di salute, però in un certo senso mi sono sentita sollevata, perché ho detto, beh, intanto non gli può essere successo niente di grave, ero ignara di tutto. Dice, però, meno male che ora è in un ospedale. Ora è in mano ai medici e io le assicuro che fino a che non ho saputo della sua terribile morte ero preoccupata sì per il suo stato d'animo, ma non certamente per la sua vita. Quindi lei era, tra virgolette, tranquillizzata dal fatto, beh, comunque adesso... Che fosse in un ospedale. E adesso... In realtà i medici lo stavano lasciando morire, io lo ribadisco, e questo è emerso, non hanno fatto nemmeno quel poco che bastava per salvargli la vita, non si sono nemmeno resi conto che il catetere era pieno, insomma, di che stiamo parlando? Allora io sentirei Guglielmo da Bologna, buongiorno Guglielmo. Buongiorno. Dica. Io vorrei dire che intanto i drogati non sono un problema sociale, ma sono un problema per la società. Ecco, e detto questo, volevo chiedere a questa signora Ilaria quali titoli ha o aveva per candidarsi al Parlamento e quali titoli per tentare la carriera politica, se non la notorietà che le derivava dalla tristissima storia di suo fratello. Grazie Guglielmo, la vicenda per la quale lei si è candidata, ricordiamo, per Rivoluzione Civile, Ilaria Cucchi, poi Rivoluzione Civile non ha espresso parlamentari in Parlamento, è una domanda che le pongono molti, cioè l'avere, glielo dico brutalmente, sfruttato questa vicenda drammatica per una carriera politica. Cucchi. Sì, allora io risponderei in ordine, quindi alla prima domanda. Un drogato è un problema sociale, un problema per la società. Un drogato è prima di tutto un essere umano che va semmai curato e tutelato per quello che rappresenta, di cui comunque va salvaguardata la vita. Purtroppo abbiamo una cultura, in particolare quella carceraria, nella quale se sei un ultimo vengono calpestati tutti i tuoi diritti. Io non ho mai detto che è stato uno sbaglio arrestare mio fratello, mai detto. Mio fratello doveva rispondere per i reati di cui era accusato, ma certamente non rispondere con la vita. Per quanto riguarda diciamo il mio tentativo di entrare in politica, è stato anche per questo motivo, per provare intanto a parlare più possibile di queste tematiche, che purtroppo sono quelle che non si affrontano quasi mai. E devo dire che la mia campagna elettorale è stata importantissima per quanto mi riguarda, proprio per questo, perché mi ha dato modo di parlare a tantissima gente della realtà della nostra giustizia, della realtà delle nostre carceri, che mi creda, è una realtà terribile. È vero che nel nostro paese ci sono tante emergenze, ma sicuramente questa fa parte delle emergenze, fa parte di quelle cose che non possono più aspettare, perché investe direttamente la cultura del rispetto dei diritti umani, che devo dire manca assolutamente nella realtà. Io poi devo dire una cosa mia personale: secondo me, se uno si candida in politica, visto che si critica troppo la politica, si dice non fanno niente, se uno si candida in politica con l'idea di dire, che ne so, mi batterò per una maggiore giustizia sociale nelle carceri, o mi batterò per affrontare il problema dell'immigrazione, ma uno può avere anche degli ideali e credere che con la politica si possa fare qualcosa. Poi in questo caso è andata male, ci dovrebbe essere la politica. Ci riproverà, o è un'esperienza che dice è stata talmente sfortunata che è meglio lasciar perdere? Io ora non so quello che farò, le posso dire per certo che io continuerò, come ho fatto in questi 3 anni e mezzo, a girare ovunque, a parlare alle persone, anche a gruppi piccolissimi di persone, perché ripeto, bisogna cambiare un problema culturale. Sì. È l'unico mezzo che abbiamo è parlare. Senta, le vorrei chiedere questo. Lei, come sa, c'è un politico, il senatore Giovanardi, che spesso si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti nei confronti di suo fratello, anche qui a questi microfoni. Ha detto era un tossicodipendente, anoressico, insomma, ha legato i motivi del suo recesso a una questione meramente di salute. Lei ha intenzione di replicare qualcosa a Giovanardi? Guardi, io di solito non amo replicare a Giovanardi, che devo dire mi accompagna ormai da 3 anni e mezzo, cioè da un istante dopo che si è saputo della morte di mio fratello. Giovanardi si commenta da solo. Quello che posso dire è che Giovanardi e le sue parole sono espressione di quel problema culturale di cui le parlavo, e sono anche espressione della volontà politica che c'è stata fin dal primo istante di ridurre tutto ad un caso di mala sanità, non solo di insinuare nella mente delle persone quel concetto che io definisco una sorta di autoimmunizzazione, vale a dire in fondo se l'è cercata, e a me non capiterà mai. Io dico che non è esattamente così, che queste cose potenzialmente possono capitare a chiunque di noi, però le persone spesso hanno bisogno di trovare nelle vittime di questi soprusi qualcosa che li differenzi da loro, e allora affrontiamo un processo nell'immaginario collettivo prima ancora che nelle aule di giustizia, che è fondamentalmente un processo alla vittima. Lo vediamo sempre in questi casi, l'abbiamo visto con Federico Aldrovandi, con mio fratello, con Giuseppe Uva. La colpa è sempre del morto, e il primo processo che si fa, sia fuori sia purtroppo dentro le aule di giustizia, è alla vittima. L'ultima domanda che le faccio è questa, intanto la ringrazio, ho 30 secondi però le chiedo di rispettare questi tempi. Cosa si aspetta lei dal processo di secondo grado? Si aspetta di un diverso esito? Io mi aspetto che avvenga quello per cui ci siamo battuti fin dal primo momento, e cioè che la giustizia abbia il coraggio di indagare su se stessa, perché mio fratello prima di tutto è una vittima di giustizia. L'ho detto all'inizio, mio fratello è stato vittima di giustizia nel momento in cui è stato processato e mandato in carcere come albanese senza fissa dimora. Mm. Io qui mi fermo, la ringrazio Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, così come ringrazio il presidente dell'Ordine dei Medici a Medio Bianco per essere stati con noi. Ovviamente potete riascoltare come sempre tutto su radio24.it. Da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, i ringraziamenti insieme all'alpino Peter Bescapè sono dovuti, e ci risentiamo domattina alle 6.30.